Ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Quindicesima puntata. Ho dovuto accomiatarmi da Kraus, se n'è andato. Una luce, un sole si è spento. Per me è come se sul mondo, su tutto ciò che mi circonda, d'ora in poi non fosse più che sera. Il sole, prima di sprofondare, getta ancora dei raggi rossastri sull'ambiente che si oscura, così Kraus. Prima di partire egli mi ha fatto ancora una rapida ramanzina e così per l'ultima volta ho potuto vedere in piena luce il vero Kraus. Tutto Kraus. «Addio, Jacob, correggiti, cambiati», m'ha detto, mentre mi tendeva la mano quasi seccato di doverlo fare. «Io me ne vado verso il mondo, verso l'impiego. C'è da sperare che tocchi presto anche a te. Non sarà certo un danno. Una gragnuola di botte sulla tua testa balzana, questo ti auguro. Quelle tue orecchie impertinenti abbisognano di una buona stiracchiata. Non ridere, fammi il favore, al momento del distacco. Da te non ci sarebbe da aspettarsi altro, del resto. E chissà. Può darsi che i casi di questo mondo siano così assurdi da farti salire in alto. Allora potrai proseguire tranquillo e sfrontato sulla tua strada di spudoratezza, di pervicacia, di presunzione e di sorridente pigrizia, di motteggi e di ogni sorta di scorrettezze e continuare a essere lo scapestrato che sei. Spingerai il petto in fuori fino a scoppiare, con tutti i difetti di cui non ti sei voluto spogliare qui all'istituto, ma io spero invece che tu conosca la dura scuola della fatica e del cruccio, una scuola che fa piazza pulita delle cattive inclinazioni. Vedi, Kraus ti parla con durezza, eppure son forse meglio disposto io verso di te, capo scarico, che non tanti altri pronti ad augurarti fortuna a tutto spiano. Lavora di più. Abbi meno desideri. E ancora una cosa, dimenticami del tutto, te ne prego. Non farebbe che irritarmi l'idea che tu conservassi di me un qualsiasi pensiero fuori uso, vecchio, spelacchiato, una specie di ballonzolante ritornello, se non è per oggi sarà per domani. No, ragazzino, tientelo per detto, Kraus non ha nessun bisogno dei tuoi passatempi alla von Gunten. Caro, spietato cuore, gridai pieno di angosciosi presagi e sensazioni di addio, e feci per abbracciarlo, ma egli nel modo più semplice me lo impedì, si allontanò, rapido e per sempre. «Oggi c'è ancora un istituto beniamenta, domani non più», dissi forte parlando a me stesso ed entrai nella stanza del direttore. Mi sentivo come se nel mondo, da un'estremità degli spazi fino a quella opposta, si fosse aperto uno squarcio pauroso, ardente, incandescente. Metà della vita era scomparsa con Kraus. «D'ora in poi un'altra vita», mormorai. Niente di strano, d'altronde ero turbato e un po' sconvolto. A che pro tanti paroloni. Mi inchinai davanti al direttore più compassatamente che mai e mi parve conveniente dirgli «Buongiorno, signor direttore». «Sei impazzito, figliolo», gridò. Mi venne incontro e fece per abbracciarmi, ma io glielo impedii, assestandogli un colpo sul braccio teso. «Kraus è andato», dissi molto serio. Tacemmo e ci limitammo a scambiarci uno sguardo insistente. «Oggi», disse poi il signor Beniamenta in tono maschio e pacato, «per tutti gli altri tuoi compagni ho trovato un posto. Qui restiamo solo noi tre. Tu, io e colei che è stesa di là sul letto. La morta. Perché non parlare tranquillamente dei morti? Son vivi, non è vero? La porteranno via domani. È un pensiero triste ma ineluttabile. Oggi noi tre siamo ancora insieme e rimarremo desti tutta la notte. Noi due discorreremo, accanto al suo letto. E se ora ripenso al giorno che tu arrivasti e alle tue preghiere, intimazioni e richieste di essere ammesso alla scuola, è inaudita la smania di vivere, di ridere che mi prende. Ho più di 40 anni, vuol dire essere vecchi. Voleva dirlo, ma ora che tu, Jacob, sei qui, questa mia età di quarantenne è come una gioventù verdeggiante di floride gemme. Con te, amore di ragazzo, un soffio fresco di vita, la vita stessa, insomma, mi ha investito e pervaso. Qui, vedi, qui, in quest'ufficio, ormai non speravo più. Ero totalmente inaridito, mi ero addirittura sepolto da me stesso. Odiavo il mondo, o come lo odiavo. Indicibilmente odioso e repulsivo mi era divenuto tutto questo esistere, questo agitarsi, questo vivere. E allora entrasti tu, fresco, stupido, screanzato, insolente come un fiore, olezzante di sensazioni incorrotte. E io naturalmente ti bistrattai. Ma mi era bastato vederti per capire che eri una bellezza di figliolo. Uno che sembrava sceso giù dal cielo come un dono inviatomi da una provvidenziale divinità. Sì, era proprio di te che avevo bisogno. E sorridevo sempre in segreto quando venivi qui ogni tanto a importunarmi con le tue sfrontatezze e villanie che mi apparivano come riuscitissimi quadri. No, non a importunarmi. Ad ammaliarmi, calma, beniamenta, calma. Non ti sei mai accorto di che noi due eravamo amici? Taci, taci. Ma quando io serbavo così la mia dignità di fronte a te, oh, come avrei voluto poi lacerarla, ridurla in pezzi. Che inchino pazzescamente irreprensibile mi hai fatto ancora oggi. Ma ascolta, cos'era di preciso quella mia sfuriata di pochi giorni fa? Ho voluto farti del male? O cercavo io stesso di colpirmi a morte? Forse tu, Jacob, lo sai? Sì? Spiegamelo subito allora, per favore. Subito, capisci? Che cosa mi succede? Eh? Che dici? Non lo so, signor direttore, risposi. Ho creduto che lei fosse impazzito. Al vedere il fiotto di tenerezza e di gioia vitale che gli sprizzò dagli occhi, mi sentii rabbrividire. Per un istante rimanemmo in silenzio. Improvvisamente mi sorse l'idea di rammentare al signor Beniamenta la promessa di narrarmi la storia della sua vita. Ottima ispirazione. Era un modo come un altro di distrarlo, di prevenire nuovi accessi omicidi. In quel momento ero ben sicuro di trovarmi fra gli artigli di un mezzo pazzo, perciò dissi in fretta col sudore che mi colava sulla fronte. E la sua storia, poi, signor direttore, che ne è? Sa bene che detesto le parole a metà e lei mi ha accennato oscuramente di essere un sovrano spodestato. Avanti, dunque. Sia più chiaro, la prego, sono ansioso di udirla. Lui si grattò imbarazzato dietro l'orecchio, poi tutto a un tratto montò in collera, in una collera meschina. Fuori di qui! Lasciami solo! M'ingiunse in tono sergentesco. Non me lo feci dire due volte e sparii in un batter d'occhio. Si vergognava? Si accorava per qualche motivo quel re Beniamenta, quel leone in gabbia? A ogni modo, anche stavolta fui ben contento di potermene star fuori in corridoio a origliare. Silenzio di tomba. Entrai in camera mia, accesi un mozzicone di candela e mi immersi nella contemplazione del ritratto della mamma che ho sempre conservato con cura. Più tardi udii bussare all'uscio. Era il direttore, tutto vestito di nero. «Vieni», mi comandò gelido. Entrammo nel salotto per la veglia della dormiente. Con un lieve cenno del capo, il signor Beniamenta mi indicò il mio posto. Ci sedemmo. Dio sia lodato, almeno non percepivo alcuna stanchezza fisica. Ciò mi dava grande sollievo. Il viso della morta era sempre bello. Sembrava anzi essersi fatto più avvenente, dirò di più. Di minuto in minuto pareva acquistare in bellezza, in commozione, in grazia, qualcosa come un sorridente perdono d'ogni sorta di errore sembrava aleggiare e tenuamente vibrare nella stanza, come uno strido, ecco. E l'ambiente era chiaro, pieno di serietà luminosa, tutto fuorché sinistro. Mi sentivo ben disposto, poiché il solo fatto di essere lì a vegliare mi consentiva di gustare la pace che proviene dal silenzioso adempimento di un dovere. Più tardi, Jacob, cominciò il direttore mentre stavamo lì seduti, più tardi ti racconterò ogni cosa, dato che certamente rimarremo insieme. Credo fermamente, per non dire tassativamente, che sarai d'accordo. So che domani, quando ti chiederò qual è la tua decisione, non mi dirai di no. Per oggi ho da dirti che non sono un vero re deposto. Ho creduto di dirti così giusto per l'immagine. Ma ci fu però un tempo in cui questo beniamenta che ora ti siede accanto si sentiva dominatore, conquistatore e re. La vita allora mi si stendeva davanti perché l'afferrassi. Tutti i miei sensi credevano all'avvenire e alla grandezza. I miei passi mi portavano innanzi elastici come su verdi tappeti compiacenti e tutto ciò che vedevo lo possedevo. E pensare anche di sfuggita a una cosa voleva dire goderla. E tutto era pronto a incoronarmi di soddisfazione, a ungermi di successi e di trionfi. Ero un re senza neppure accorgermene. Ero grande senza aver bisogno di rendermene coscientemente conto. In questo senso, Jacob, sono salito in alto, sono cioè semplicemente stato giovane e pieno di promesse. E in questo senso ho subito una destituzione, uno spodestamento. Sono crollato e ho dubitato di me e degli altri. Quando si dispera e ci si affligge, caro Jacob, si è così penosamente piccini e ogni sorta di piccinerie ti cadono addosso, simili a insetti ghiotti e frenetici che ti divorano adagio e sanno come soffocarti, come abbrutirti lentamente. Quello del re, dunque, non era altro che un modo di dire. Mio piccolo ascoltatore, ti prego di scusarmi se ti ho fatto credere d'aver posseduto scettro e manto di porpora. Ma io credo che tu in realtà sapessi cosa c'era sotto quei balbettamenti, quei sospirosi discorsi di regalità. Sì, sincero, non mi trovi un po' più affabile adesso che non sono più un re? Poiché tu stesso devi ammetterlo, un simile despota, qualora fosse costretto a dar lezioni o roba del genere e ad aprire un istituto, si muterebbe certo in un essere sinistro. No, no, in me c'era solo letizia e orgoglio del futuro. In questo consistevano le mie terre, i miei proventi regali. Poi, per lunghi, lunghi anni, caddi nello scoramento, nell'avvilimento. E ora sono di nuovo, o meglio, comincio di nuovo a essere me stesso. Mi sembra di aver ereditato un milione, ma che un milione, no, mi sembra di salire su un trono, di ricevere una corona. E tuttavia mi ripigliano sempre le ore buie, atrocemente buie, quando non ho che nero davanti agli occhi e tutto risulta odioso al mio cuore arso, per così dire, intendimi bene, al mio cuore carbonizzato. E in codeste ore un impulso irresistibile mi spinge a sbranare, a uccidere. E tu, anima mia, ora che sei questo, vorrai non di meno rimanere con me? Saprai deciderti, magari solo per simpatia umana nei miei confronti o per qualche altro sentimento che ti sia grato, a sfidare il rischio che ti incombe nell'accompagnarti a un mostro par mio? Non tennai a male per tutto quello che ti ho detto. avertene a male. Sciocchezze, via. Io del resto, Jacob, lo so già, che vivremo insieme. È deciso. Perché domandare ancora? Vedi? Conosco bene il mio antico allievo. Adesso, Jacob, non sei più mio allievo. Non voglio più modellare né ammaestrare nessuno. Voglio vivere. E vivendo, smuovere, portare, fare qualche cosa. Oh, che bellezza poter soffrire insieme a un compagno del cuore come te. Ora che possiedo quel che volevo possedere io, ho l'impressione di potere tutto. So che soffrirò e sopporterò lietamente tutto. Non più pensieri, non più parole. Taci, te ne prego. Domani, quando m'avran portato via quella vita che giace lì sul letto, quando mi sarà concesso di liberarmi dalla pura esteriorità dell'etichetta per rivolgerla invece all'interno, domani mi dirai che ne pensi. Mi dirai di sì oppure di no. Adesso sappilo, sei completamente libero. Puoi dire e fare quello che più ti piace. Io dissi pian piano, tremando dal desiderio di mettere un po' di spavento a quell'uomo, a mio avviso troppo fiducioso. Ma è la pagnotta, signor direttore. Agli altri lei ha procurato di che vivere e proprio a me niente? Mi sembra strano, non è giusto. È un punto su cui non cedo. Lei ha il dovere di trovarmi un'occupazione regolare. Voglio assolutamente avere un posto, un impiego. Come trasalì. Si era spaventato. E io me la ridacchiavo tra me. Nulla al mondo è più piacevole delle diavolerie. Hai ragione, disse con tristezza il signor Beniamenta. In base al tuo certificato di licenza è logico che ti sia procurato un posto. Certo sei nel tuo buon diritto. Solo pensavo che avresti fatto un'eccezione. Un'eccezione? Esclamai quasi fiammeggiassi di sdegno. No, niente eccezioni. Mai. Non è cosa che si addice al figlio di un alto consigliere. Per la mia modestia, per la mia nascita, per tutto ciò che sento, è escluso che io pretenda più di quanto hanno avuto i miei condiscepoli. Da quel momento non pronunciai più parola. Mi divertiva lasciare il signor Beniamente in uno stato di inquietudine ben visibile e che solleticava la mia vanità. Passammo in silenzio il resto della notte. Ma mentre ero seduto lì a vegliare, finì per vincermi il sonno. Non a lungo, per non più di mezz'ora o forse qualcosa di più, venni sottratto alla realtà. Sognai, e il sogno, ricordo, mi piombò addosso dall'alto con irruenza, avvolgendomi di raggi, di trovarmi su un prato di montagna color verde scuro come di velluto. Il prato era tutto trapunto e cosparso di fiori come fossero baci che avevano forma e foggia di fiore, e i baci ora mi apparivano simili a stelle, ora di nuovo come fiori. Era natura e non lo era. Immagine e corpo ad un tempo. Sul prato giaceva una giovinetta di meravigliosa bellezza. Cercavo di convincermi che era la nostra maestra, ma mi dicevo in tutta fretta: no, non è possibile, la nostra maestra non c'è più. Perciò doveva essere qualcun altro. E io vedevo materialmente che ero consolato, udivo la consolazione, sentivo chiaramente una voce dirmi: uff, smettila di spiegare! La giovinetta era nuda, di una nudità turgida e lucente. A una delle due belle gambe era legato un nastro, lievemente agitato dal vento che blandiva l'intera scena. Tutto il dolce sogno, terso come un cristallo, mi sembrava oscillare, svolazzare, come ero felice. Solo di sfuggita pensavo a quell'uomo, e naturalmente si trattava del direttore. A un tratto lo vidi. Era a cavallo e vestiva un'armatura nobile e severa, d'un nero sfavillante. Dal fianco gli pendeva la lunga spada e il destriero mandava nitriti bellicosi. «Toh, guarda, il direttore a cavallo!» mi dissi, e a tutta voce, tanto che ne echeggiarono gole e dirupi, gridai: «Ho preso la mia decisione!» ma lui non mi sentiva. Chiamai angosciato. «Olà! Signor direttore! Mi sente?» No, mi voltava la schiena. Il suo sguardo era fisso in distanza laggiù, lontano, verso la vita, e nemmeno volgeva il capo nella mia direzione. A questo punto il sogno, come per compiacermi, si metteva a procedere a tratti successivi quasi a guisa di un carro. Ed ecco che io e quell'uomo, cioè appunto il signor Beniamenta, ci trovavamo in mezzo al deserto. Lo attraversavamo a piedi, commerciando con i suoi abitatori. E una soddisfazione impassibile, grandiosa, starei per dire, ci dava uno strano senso di baldanza. Era come se fossimo fuggiti per sempre, o almeno per un tempo assai lungo, da ciò che si usa chiamare civiltà europea. Ah, pensavo senza volerlo, e così mi sembrava, alquanto scioccamente, era questo dunque. Ma che cosa intendessi con questo rimaneva indecifrabile. Proseguivamo, ed ecco apparirci dinanzi un'orda di gente a noi ostile, che però disperdevamo senza che mi fosse chiaro come. Luoghi e giorni di marcia ci scivolavano insieme davanti, veloci come saette, e io sentivo su di me l'esperienza di lunghi, gravosi decenni che passavano via ammiccando. Curioso, veramente. Le settimane scorrevano come sassolini lucidi. Era una sensazione comica e nello stesso tempo straordinaria. Sottrarsi alla civiltà, Jacob. Non c'è niente di più bello, sai. Mi ripeteva ogni tanto il direttore che aveva l'aspetto di un arabo e i costumi che vedevamo ci seducevano. Nelle ondulazioni delle terre c'era qualcosa di ineffabilmente soave. Sì, mi pareva che anche le terre camminassero, o piuttosto volassero. Il mare si stendeva maestoso all'orizzonte come un grande mondo di pensieri, liquido e azzurro, di quando in quando udivo ali d'uccelli frullare, belve ruggire, alberi stormire sopra il mio capo. «Sei venuto anche tu, dunque, lo sapevo», mi diceva il signor Beniamenta, che gli indiani avevano elevato al rango di principe. Incredibile! Per quanto stravagante possa sembrare, il fatto è che in India avevamo portato la rivoluzione e all'apparenza il colpo ci era riuscito. Com'era delizioso vivere! Lo sentivo in tutte le membra. Nella nostra visuale a perdita d'occhio la vita campeggiava come un albero fitto di rami e come stavamo saldi in piedi e guazzavamo tra pericoli e rivelazioni come in una corrente d'acqua fredda che però ristorava i nostri fervori. Io ero sempre lo scudiero mentre il direttore era il cavaliere. Molto bene, pensai a un tratto, e mentre lo pensavo mi destai e guardai intorno nella stanza. Anche il signor Beniamenta si era addormentato. Lo svegliai dicendogli: «Come può dormire, signor direttore? Ma mi permetta di dirle che ho deciso di seguirla dovunque vorrà andare». Ci stringemmo la mano e questo significava molte cose. Sto preparandomi a partire. Sì, tutti e due, io e il direttore, siamo occupati nei preparativi di partenza. Involgiamo le nostre robe, pieghiamo le tende, sgombriamo, spingiamo, tiriamo, spostiamo. Ce ne andremo in viaggio. Molto bene. Quest'uomo mi va e non sto più a domandarmi perché. La vita, lo sento, esige effervescenza, non riflessione. Oggi andrò a salutare mio fratello. Non voglio lasciarmi niente alle spalle qui. Niente mi avvince, niente mi obbliga a dire «E se invece io...» No, è finito il tempo dei se e dei ma. La signorina Beniamenta giace sottoterra, gli allievi, i miei compagni, sono dispersi in impieghi d'ogni sorta, e se io andrò in pezzi e in malora, che cosa si romperà, che cosa si perderà? 1-0. Io, come singolo individuo, sono 1-0. Ma finiamola ormai con la penna, finiamola con la vita dei pensieri. Vado nel deserto col signor Beniamenta. Voglio un po' vedere se anche in una landa incolta non si può vivere, respirare, esistere, volere e fare sinceramente il bene e dormire di notte e sognare. Via, adesso non voglio proprio pensare più a nulla, neanche a Dio. No, Dio sarà al mio fianco. Che bisogno ho di pensare a Lui? Dio va con chi è libero dai pensieri. Addio, dunque, Istituto Beniamenta.